Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Collega Chiara, buonasera. Buonasera Federico e buonasera ai cari ascoltatori. Da che cosa incominciamo? Ma cosa vuoi cominciare? Vuoi cominciare a dire il menù della giornata, della serata? Che sta per arrivare Expo è già arrivato e noi dobbiamo cominciare a parlarne. Eh sì, vogliamo cominciare a raccontare quello che ci compete, insomma, le tecnologie legate appunto soprattutto all'agricoltura e all'alimentazione. Poi è l'anno della luce 2015 e perché non usarla questa luce anche per guardare nel nostro cervello? E poi, sempre parlando di tecnologia, parliamo di un frigo che, pensa, consuma 1 watt al giorno, non fa ghiaccio, ma conserva ottimamente i cibi. Io l'ho visto, gli ho fatto anche delle immagini, andrete al blog a vedere queste immagini. Infine, gli occhiali per la realtà aumentata sono certamente il futuro della manutenzione. C'è un interrogativo: scompariranno i manuali di istruzione? E prima di passare al tema, insomma, di Expo, vogliamo dire che il nostro contest, il nostro concorso Videocondria ha avuto grande successo. Ringraziamo tutti gli ascoltatori che hanno partecipato, sia venendoci a trovare in piazza a Bologna nel weekend scorso, sia coloro che hanno partecipato virtualmente attraverso i link di YouTube. Solo per dare due idee di quelle che sono le malattie che ci sono arrivate: goduria, saudagi, nettunofobia, la malattia del broncio, questa deve essere tremenda, sì. La maritalgia, attenzione, poi c'è la smart polliciosi, la zazzachite, il sync disorder, l'adolescenza, pensa a questa che malattia strana che è, la teofanite cronica e anche questa, un nome stranissimo perché veramente vi siete sbizzarriti, la sindrome di Mikula Interregger, ecco. Che ci arriva da un filosofo della scienza. E queste sono soltanto alcune. Dunque, la giuria di Möbius si sta per ritirare e vedrà 2, 3, qualcuno dovrà vincere, forse 4, settimana vediamo. Prossima decreteremo i vincitori. Partiamo. Cosa dicevo prima? Dicevo che Expo è partito da pochi giorni, c'è il sito Arò Grande, che però, Chiara, è un po' più, come possiamo dire, ciboso? Sì, è un po' più dedicato ovviamente alla parte dell'alimentazione, molto molto scenografico, molto bello, avete molto visto bello. Tutte le immagini, noi di Möbius ci siamo un po' sacrificati e siamo andati a vederlo per voi, insomma, devo dire, dal punto di vista scenografico, architettonico, veramente meraviglioso. Dal punto delle tecnologie, insomma, legate alla alimentazione, bisogna guardare anche nei dintorni di Expo, quindi gli eventi e le iniziative collaterali, che sono anche quelle che interessano a noi, quindi noi incominceremo a parlarvi di queste tecnologie magari anche dentro Smart City o altri momenti in altre trasmissioni della radio, certamente. A questo proposito, insomma, siamo un po' andati a visitare questi padiglioni cosiddetti decentrati. In settimana siamo andati a Lodi, al Parco Tecnologico Padano, dove lì hanno appena inaugurato il Demo Field, che è un campo sperimentale in cui appunto vengono messe in campo alcune tecnologie cosiddette dell'agricoltura del futuro, o meglio, più che altro sono tecnologie che già ci sono, che applicate all'agricoltura porterebbero certamente ad un'intensificazione e a un potenziamento della raccolta, però stando attenti ovviamente al pianeta e alla sostenibilità. Tra queste mi verrebbe da citare l'impiego dell'irrigazione goccia a goccia, e lì era possibile proprio vedere una collina completamente coltivata con 4 cereali diversi: riso, mais, soia e sorgo, ed era impressionante vedere come ad esempio il riso, tutto l'immagine sommerso. E questa è la tradizione, certo. E invece, lì cresceva anche in pendenza e con le goccine. Immaginiamo come possa essere applicata questa tecnologia magari in Cina o nelle parti degli altipiani cinesi. Beh, ma in anche cui qua, appunto di acqua che tiriamo via dal Po. Assolutamente. E poi ovviamente c'era una serra, pensa, con fragole e pomodori sollevati dal suolo, le cosiddette colture fuori dal suolo, dove ovviamente la produttività della pianta è aumentata perché non c'è il contatto col terreno, quindi la pianta ha, diciamo, più area per poter crescere, e allo stesso tempo aiuta anche il raccoglitore, l'agricoltore, a raccogliere le piantine e così via. Davvero è interessante, quindi chi volesse può partecipare, può andare a visitare questo campo sperimentale al Parco Tecnologico Padano di Lodi. Loro sono a vostra disposizione per farvi vedere tutte le tecnologie. E poi andiamo a Bergamo, a Chilometro Rosso, che è un parco tecnologico che Federico e io conosciamo conosciamo bene e che spesso è stato ospite anche qui. Lavora in tanti campi. Ospiterà un ciclo di conferenze appunto legate a questi temi della tecnologia, dell'agricoltura, del futuro e adesso proprio questa settimana, il 20 maggio, ne parte uno che si chiama Meccanizzazione Agricola, proprio la tecnologia trattori. 2.0, trattori e così via. E qui con noi, ecco, abbiamo uno degli ospiti di questa giornata. Diamo il benvenuto all'ingegner Francesco Taroni. Buonasera. Buonasera Chiara, buonasera Federico. Buonasera e benvenuto. Dove lavora? Lavora alla Same Deutz Fahr, che è un'azienda che ha appunto tecnologie di questo genere, e lei è responsabile dell'area elettrica ed elettronica. Esatto, sì. Noi siamo una società che costruisce appunto trattori dai più piccoli ai più grandi e anche mietitrebbe, tutta la filiera, quindi dalla lavorazione in campo fino alla raccolta. Ecco, ma ci sarà ancora qualcuno a guidare il trattore oppure no? Si guiderà da solo prima o poi? Sì, questa è una cosa attuale, non è tanto un prima o poi, ma lo è già, è una realtà effettivamente già presente e diciamo che ormai i mezzi agricoli, diciamo, giusto fare una brevissima storia, negli anni 90 e negli anni 0 sostanzialmente c'è stata una prima grossa rivoluzione nel realizzare questi nuovi mezzi, dove, come noi chiamiamo, a me piace chiamare così, c'è stata un po' una prima rivoluzione dalla ghisa al silicio. Sostanzialmente, come nelle altre auto, ma qui maggiormente, sono inserite veramente una quantità notevole di sistemi elettronici, quindi di sistemi servoassistiti. Ovviamente l'ambito agricolo rispetto ad ambiti quali l'automobile o cos'altro, al fine ci deve essere sempre un perché, cioè ci deve essere un bisogno da soddisfare. E il bisogno fondamentale era ed è il discorso legato al precision farming, quindi l'agricoltura di precisione. Ok. E questa è stata un po' la chiave di svolta che ha condizionato tutti i nostri sistemi sviluppati fino ad ora. E quindi oggi possiamo dire già ormai da parecchi anni esistono sistemi che fanno guidare autonomamente il trattore in modo assolutamente sicuro e abbastanza. Sono sistemi satellitari, immaginiamo? Sì, si basa su tecnologie. Non è una guida in remoto, vanno proprio da solo con un software che gli dà una mappa operativa. Una sorta di pilota automatico degli aerei? Una roba così. Esatto. Sì, sostanzialmente il concetto nell'approccio di questo tipo di discorso è che l'agricoltore, ovviamente, di una certa livello di conoscenza e così via, descrive al computer, diciamo, un suo percorso. Questo avviene, quindi una mappa viene chiamata mappa di vigore, quindi cosa vuole fare lui poi in campo. Realizza quindi una chiavetta USB di quelle tradizionali, le installa, le inserisce su un monitor che è presente sui nostri veicoli. Dopodiché il sistema, in modo automatico, una volta ingaggiato ovviamente, quindi c'è tutto l'aspetto di safety che va assolutamente salvaguardato e sviluppato, il sistema a quel punto replica quello che l'operatore ha definito a priori, quindi con le mappe di vigore, e le realizza proprio nel campo, quindi sul campo il trattore guida, sul campo è addirittura in grado di comandare gli attrezzi adesso comandati. Ma il vantaggio è che non c'è più un umano che si prende un sacco di sole, qual è? Il vero vantaggio non è questo, perché sennò il vero vantaggio sarebbe quello di rimuovere completamente la cabina, quindi a questo punto andremo verso sistemi completamente remoti. Il vero vantaggio di tutto questo è quello di non andare, ad esempio, in una particolare lavorazione, di non avere, come viene chiamato, overlapping, cioè quando vengono distribuiti per esempio dei fitofarmaci, il fatto di non avere zone in cui se ne metta di più, perché ovviamente gli attrezzi sono sempre più grandi, l'operatore non riesce a guidare perfettamente, quindi si va e anche per la sicurezza dell'operatore. Assolutamente. Sì, gli aspetti sono appunto quello di una migliore resa del prodotto, quindi non cospargere prodotti che tipicamente non sono da una parte costosi e dall'altra anche un po' di impatto biologico, quindi vengono messi il meno possibile. E l'altro aspetto è che mentre, e questo è l'altro aspetto veramente importante che sarà l'evoluzione, mentre si fa questo tipo di lavorazione in realtà si sta anche raccogliendo o comunque si sta inserendo dei dati per poi post elaborarli in fase finale, in fase di raccolta. Ah, è quella storia lì che il trattore valuta il terreno che ha davanti, è questo? È il famoso trattore intelligente. Sì, questa è un po' la tendenza. Sostanzialmente oggi il cerchio si chiude, quindi il vero precision farming è che quindi l'operatore, l'agricoltore, riesce a pianificare le proprie attività e le pianifica in tutto tondo, cioè nel senso, quindi in fase di semina, in fase di preparazione del suolo, ha bisogno di certe informazioni, ma soprattutto in fase di raccolta. In fase di raccolta lui, le macchine di raccolta, riescono oltre a raccogliere il prodotto a raccogliere i dati e georeferenziare, quindi sapere che l'anno successivo magari se una zona del quel campo non ha reso e può capire come correggerlo, magari dando più fertilizzanti, dandogli più irrigazione, l'anno successivo avrà una correzione del proprio prodotto. Cioè, il trattore diventa anche in qualche modo un software che studia, analizza il terreno in ogni, diciamo, centimetro quadrato e ottimizza poi l'anno successivo il raccolto. Insomma, l'agricoltore può elaborare ovviamente i dati, esatto, e ottimizzare così chiaramente il raccolto e potenziare, certo, cioè fa la resa. Delle cose adesso e fa delle cose in funzione del progress del lavoro, accumula dati. Esatto, sì. Esatto, infatti la prossima, diciamo, frontiera, ecco, la frontiera qual è? Sarà quello che noi abbiamo come nella nostra roadmap nel 2020, quindi lo sviluppo successivo sarà, come prima abbiamo detto, ghisa silicio. Il prossimo paradigma sarà silicio data, quindi il vero key point, il vero elemento di successo sarà la gestione dei dati, perché a questo punto avremo una marea di dati che arrivano dal trattore, che arrivano dal campo, perché ci sarà anche un'evoluzione da avere dei smart field, come esistono le smart city, ci saranno degli smart field, ci saranno dei droni, ci sarà tutta una connessione di informazioni, quali per cui potrebbero essere i prodotti chimici da utilizzare, l'attrezzo e le condizioni climatiche. Questo tutto al fine di permettere all'agricoltore di poter pianificare in anticipo e soprattutto legate magari alle condizioni ovviamente climatiche del prodotto scelto, dall'andamento anche del mercato di certi prodotti, pianificare in modo efficiente il suo lavoro che ha nella stagione che ha a venire o quelle successive. Va bene, allora possiamo ricordare l'appuntamento dove possiamo incontrare appunto l'ingegner Taroni, ma anche quello che diceva, i mezzi intelligenti, i droni e così via. Abbiamo detto a Chilometro Rosso, quindi vicino a Bergamo, il 20 di maggio nel pomeriggio intorno alle 16. Grazie davvero e buon lavoro, Taroni. Grazie a voi. Arrivederci. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Poco fa si diceva che il 20 si parla di trattori e tecnologia agraria a Bergamo. Invece a Torino? A Torino c'è un appuntamento che fa parte dell'anno della luce. Lo sapevate che è l'anno della luce, voi che ci ascoltate? Il 2015 è l'anno della luce, non ci sono un'infinità di iniziative. E fra queste appunto c'è questo convegno alla Strada delle Cacce 91, c'è anche l'indirizzo, può essere utile, a Torino. È un grosso convegno internazionale con un sacco di personaggi. All'Istituto Nazionale, mi sembra, di ricerca... L'INRIM, che è l'Istituto Nazionale di Ricerca Meteorologia. Okay. Si parla di luce nei settori più diversi, nell'industria, come per esempio nella biomedicina, e infatti questa sera di ciò parliamo con Francesco Pavone. Buonasera Pavone. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Buonasera. Lei è del Laboratorio Europeo di Spettroscopie Non Lineari, il LENS, che si trova a Firenze, e a Torino parlerà di un tema che già nel titolo è molto affascinante, la luce nel cervello. Cioè possiamo utilizzare la luce come uno strumento che ci dà conoscenze su quanto avviene all'interno del cervello. Non perdiamo tempo perché ci interessa di più il risultato, il che cosa ne viene fuori, ma insomma si può entrare nel cervello con delle tecniche abbastanza semplici. Può bastare una fibra ottica che è più piccola del più piccolo dei capelli, oppure c'è anche un altro sistema per immettere luce nel cervello, con i laser se non sbagliamo, no? Sì, scegliendo dei particolari colori, chiamati in gergo lunghezze d'onda dei laser, è possibile penetrare anche attraverso la scatola cranica del cervello e illuminare i neuroni o rivelare anche la luce emessa dai neuroni. Quindi effettivamente riusciamo ad avere anche una vista su aree molto più larghe e che ha un interesse molto forte da un punto di vista di neurofisiologia, perché ci permette di correlare il funzionamento di varie aree o all'interno delle aree vedere come si propagano i segnali elettrici. E adesso infatti, allora siamo dentro il cervello, c'è questa luce che è stata immessa, i neuroni rispondono a questa luce, no? Certo, i neuroni possono rispondere in due maniere, diciamo, o perlomeno con la luce possiamo studiare la funzionalità dei neuroni andando a misurare sostanzialmente otticamente i segnali elettrici che si propagano lungo processi neurali, oppure possiamo anche studiare la posizione dei neuroni all'interno del cervello, ed entrambi questi aspetti hanno una loro rilevanza molto forte sia per la comprensione del funzionamento del cervello, ma anche per lo studio di alcune patologie. L'autismo, per esempio, la schizofrenia, ci si sta rendendo conto ultimamente che, mentre prima si veniva curati attraverso un'analisi psicologica, successivamente abbiamo capito che molta chimica è coinvolta, diciamo, in questo tipo di patologia, e siamo passati da uno psicologo ad uno psichiatra, ma ora ci stiamo rendendo conto che effettivamente anche la struttura del cervello ha un suo perché e può avere anche, diciamo, essere collegata anche a un determinato tipo di patologia. Un autistico, ad esempio, può avere una struttura cerebellare diversa in quanto posizioni delle cellule all'interno del cervelletto, chiamate Purkinje, differente rispetto a un soggetto sano. Quindi studiare la funzionalità, ma anche studiare la morfologia. E l'utilizzo della luce, diciamo, questa nuova tecnologia ci apre degli orizzonti, perché ci restituisce un'immagine del cervello che prima non avevamo, e questa è un po' la novità. Beh, è possibile con la luce ottenere dei dettagli che sono molto, ma molto superiori rispetto alle tecniche tradizionali tipo la risonanza magnetica. Perché l'avanzamento è che con le tecniche che abbiamo fino adesso abbiamo delle mappe, delle immagini, diciamo pure delle fotografie, che però sono indirette. Invece con questo utilizzo della luce fotografiamo, tra virgolette, direttamente quello che ci interessa. L'attività elettrica sicuramente sì. Le mappe funzionali che abbiamo con una risonanza magnetica sono indirettamente collegate all'attività elettrica attraverso l'attività metabolica o di ossigenazione, ma in questo caso noi andiamo a rivelare direttamente le mappe elettriche, e questo ci dà ovviamente dei dettagli sia in termini di informazioni che di risoluzione enormemente superiori rispetto a tecniche tradizionali. Ecco, lei parlava prima dell'autismo e ci diceva che potrebbe essere, magari appunto anche altre patologie, potrebbe essere fortemente collegato a come sono disposte le molecole, i neuroni all'interno del cervello, quindi qualcosa che dipende da una geometria. Ma questo che cosa serve? Per produrre farmaci può essere utile la conoscenza di questa forma? Beh, sicuramente quelli che vengono chiamati target farmacologici in questo caso possono essere differenti, più che, diciamo, una espressione sostanzialmente o una cascata biochimica, chiamiamola così, cellulare, si può lavorare proprio sulla morfologia, sulla ristrutturazione sostanzialmente delle connessioni cellulari e della topografia, quella che si chiama normalmente citoarchitettura. Non è nuovo, diciamo, che la citoarchitettura possa essere influenzata da farmaci. Si pensi alla cocaina, ad esempio, che ristruttura il wiring, le connessioni all'interno del cervello. Quindi è possibile farmacologicamente agire su queste. E questo nuovo sistema, appunto, di indagine, che scenari apre proprio nell'ambito biomedicale? Ecco, in generale. Su due fronti, sostanzialmente. Uno diagnostico, come vi dicevo prima, cioè andare a studiare quali sono le peculiarità morfofunzionali, cioè sia di forma, morfologia, che di funzionalità nell'ambito di patologie specifiche, ma anche terapeutico, perché se abbiamo la possibilità effettivamente di intervenire sull'attivazione dei neuroni attraverso la luce, questo ci permette effettivamente di poter bloccare o certi fenomeni o poterli controllare, tipo ad esempio l'epilessia. Ok. Grazie Pavone, mi pare uno scenario interessantissimo, fortemente innovativo. Vedremo che cosa ne viene fuori. Buon lavoro. Grazie a voi e saluti a tutti, arrivederci. Ogni tanto negli ultimi tempi io o Chiara usciamo dagli studi e andiamo a vedere cose che succedono qua e là. Qui siamo a SMAO, sono qua con Atos Nobili della IDX, Innovative Digital Experience, che è una startup innovativa incubata al Business Innovation Center di Trieste. E siamo molto contenti di avere un blog come trasmissione nel quale possiamo farvi vedere delle cose che vanno viste. e quindi dei video e quindi delle immagini. E per questa chiacchierata che stiamo facendo vi diciamo subito: andate al blog. Immagino che il pubblico in generale abbia sentito parlare dei Google Glass, ma ormai nobili però ci sono diverse aziende che fanno questo tipo di occhiali, anzi mi pare di capire che i Google Glass adesso devono un po' rincorrere, no? In termini di efficienza. È chiaro che il mondo degli smart glasses, come si chiamano, sta subendo grandi evoluzioni. Sicuramente Google è stato uno dei pionieri che ha avuto delle limitazioni di utilizzo legate proprio alla gioventù di progettazione, però come sempre Google è un pioniere. Oggi nel mercato dei wearable device, come si chiamano, in particolare gli smart glasses, ci sono diversi player. Tra questi noi abbiamo scelto di sviluppare l'applicazione con le tecnologie di Epson, Moverio in particolare. Oh, io li ho messi su questi occhiali, ho visto effettivamente come funziona la realtà aumentata. Realtà aumentata, per dirla brevemente, è una strategia che mi consente, essendo in una certa situazione, in un ambiente, tipicamente di fronte a un'apparecchiatura, di vedere l'apparecchiatura e di avere una quantità impressionante di informazioni aggiuntive. Io qui per esempio ti vedo davanti a un forno di questi un po' industriali, questo da cuochi, insomma da cucine. Cosa succede? Allora, abbiamo realizzato, grazie a un nostro prestigioso cliente che è Unox e che ringrazio per averci dato fiducia, una applicazione che viene utilizzata in ambito industriale e che permette quindi al cuoco di sovrapporre all'oggetto reale, che in questo caso è un forno professionale, immagini e contenuti virtuali che vengono presi dai server aziendali e che permettono quindi al cuoco di ottimizzare le diverse cotture o intervenire per rilevare informazioni necessarie per la manutenzione del forno stesso. Ma qui ti vedo anche all'opera con una scheda, quindi un componente elettronico molto più sofisticato, e inquadriamo la scheda, poi c'è un'immagine che mi fa apparire subito un menu e io ho come un mouse in mano e su questa scheda posso fare un'infinità di cose, tra l'altro posso anche col dito toccare in diversi punti. Sì, questa che stai vedendo è un ulteriore case sulla quale stiamo approfondendo le tematiche della realtà aumentata, quindi siamo in grado di intervenire sovrapponendo all'oggetto reale, che è una scheda di computer sulla quale dobbiamo fare attività di manutenzione, oggetti virtuali, cioè componenti virtuali che l'operatore può selezionare, interagire, sviluppare zoomandoli o ruotandoli a 360 gradi e permettere poi questo anche il riordino. Perché per esempio la scheda ha un suo codice a barre, questo viene rilevato dal sistema ottico e immediatamente può partire l'ordinazione all'azienda che produce quel componente. Assolutamente sì, perché le nostre applicazioni sono nativamente integrate con i principali sistemi gestionali, in questo caso sono integrati con SAP. Siccome quel componente, quell'apparecchiatura può essere, come capita spessissimo, un oggetto diffuso in varie parti del mondo, il sistema può darmi le informazioni che voglio in tutte le lingue, dal cinese all'afgano allo spagnolo. Certo che sì, l'applicazione che vi citavo prima di Unox è stata tradotta in 17 lingue. Scompaiono i manuali? Diciamo che non scompaiono, ma sono in una forte fase di evoluzione e questo è il nuovo modo per cui noi faremo del tutoring specificamente localizzato e focalizzato su una parte dell'oggetto o del prodotto che vogliamo gestire e mantenere. Un'ultima cosa, una tecnologia in rapida evoluzione, con i costi, i Google Glass quando sono usciti insomma avevano un costo un po' elevato, eravamo intorno ai $1,500, ma sta rapidamente scendendo? Stanno rapidamente scendendo per due ordini di fattori. Primo, ci sono diversi player che si stanno affacciando nel mercato, gli Epson Moverio, il prezzo è variabile perché te lo do in dollari, è intorno agli $860 oggi, la tendenza è quello che sia un rapido abbassamento dettato anche dalla diffusione di questo tipo di device. 27esima selezione italiana per il concorso dell'Unione Europea dei Giovani Scienziati e di questo vi parliamo con un primo caso che ci porta a Cagliari, ma poi vi racconteremo tante cose. Giovanissimi scienziati delle scuole medie e superiori, selezione organizzata dalla FAST, la Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche. Allora vi dicevo, andiamo a Cagliari. Leggo sul poster dello stand conserva, ci sono due A finali. Sì, ci sono due finali. CONSERVA è un acronimo che sta per Cold Nature Sterilization Through Electromagnetic Radiations and Vacuum for Aliments. Sto parlando con Matteo Monni. Però siete un gruppo. Sì, io sono Emma Bordigoni. E io sono Pritinder Saini. Bene, CONSERVA è una rivoluzione eco-friendly per la conservazione degli alimenti. Abbiamo creato una macchina trivalente, ovvero che implementa tre tecnologie, che permette di conservare i cibi a lungo tendendo una mano all'ambiente in modo tale da consumare solo un watt al giorno in media. Io qui vedo una specie di frigo, ma capisco che non lo è. Immaginiamoci un frigo di 1,5 metri, però ci sono 4 comparti e poi c'è una porta. Com'è che funziona questo oggetto? Bene, allora abbiamo la prima parte che è quella del raffreddamento, prevede dei pannelli che imprendendosi d'acqua e facendola evaporare riducono la temperatura dell'ambiente circostante. Poi abbiamo 4 contenitori che vengono messi sotto vuoto e esposti a raggi ultravioletti di tipo C per essere sterilizzati da batteri aerobi e anaerobi. Come diceva lei, sembra un frigo perché abbiamo cercato di creare un dispositivo che comunque non fosse così difficile da introdurre anche nelle case delle persone. Gli alimenti vengono messi in questi scomparti? Esattamente, gli alimenti vengono messi dentro gli scomparti. Alla chiusura della porta parte un processo di sterilizzazione che è composto da un'attivazione della pompa del sottovuoto, che quindi uccide tutti i batteri aerobi, pericolosi sia per noi che per il cibo, e accende per 10 secondi le lampade UV che permettono di eliminare il botulino alimentare, che come sappiamo è un batterio abbastanza pericoloso e sopravvive anche in assenza d'aria. Quindi non c'è bisogno di freddo in questo caso? Beh, tecnicamente no, comunque una piccola componente di freddo, circa 10-12 gradi, massimo 15, rispetto alla temperatura ambiente, noi riusciamo a ottenerlo. Ma questo freddo viene ottenuto per evaporazione di acqua che sta intorno a questo contenitore? Esattamente, abbiamo circa 3,5 litri d'acqua di capacità, i pannelli si impregnano, l'acqua evaporando abbassa la sua temperatura dopo l'evaporazione e quindi abbassiamo tutta la temperatura della nostra macchina. Va bene, questo progetto è dell'ITIS Michele Giuia di Cagliari. Sì, esattamente, siamo un istituto tecnico industriale statale, noi siamo dell'informatico e infatti tutta la macchina è pilotata da un microcontrollore su scheda che si chiama Arduino. Bene, grazie, buon lavoro. Dobbiamo chiudere la trasmissione perché si vota. Il consiglio direttivo di Mebius entra in conclave e decreterà il vincitore del nostro concorso Videocondria. Settimana prossima vi faremo sapere. Intanto, buona settimana. Qui tutti fra 7 giorni. Ciao.